Allora, oggi i portalettere del centro di distribuzione di Vallericcia hanno fatto 3 ore di sciopero. Abbiamo fatto 3 ore di sciopero perché vogliamo protestare contro la riorganizzazione dei servizi postali che è stata firmata il 28 febbraio di quest'anno dall'azienda e da praticamente quasi tutti i sindacati della Concertazione, esclusa la UIL che al momento non ha ancora firmato. Per quale motivo protestiamo? Protestiamo perché questo accordo, questa riorganizzazione prevede 6.000 tagli nel recapito, nei servizi postali. Sono 6.000 tagli che vanno ad aggiungersi ai 6.000 tagli che sono stati fatti solamente 2 anni fa con un altro accordo e che già allora aveva dato un colpo durissimo alla nostra possibilità sia di lavorare in condizioni decenti e sia alla possibilità degli utenti di ricevere un servizio, di recapito che possa avere delle qualità, insomma, minime accettabili. Ora questa nuova riorganizzazione, questo nuovo taglio si sono verificati, sono stati firmati perché sono in sintonia con quello che è il percorso che si sta seguendo Poste Italiane e i poteri politici, ovviamente finanziari, economici italiani, per quello che è appunto il destino di Poste Italiane. Poste Italiane è un'azienda che ricordiamo è diventata una SPA nel 1998. E da allora appunto ha iniziato questo percorso di ridimensionamento per quello che riguarda il personale, di ridimensionamento per quello che riguarda l'attenzione rispetto alla qualità del servizio offerto. Dal 98 a oggi si sono persi circa 100.000 posti di lavoro, in un modo molto, diciamo, indolore sostanzialmente perché si è provveduto solamente con diciamo, la cancellazione del turnover, cioè chi è andato in pensione non è stato sostituito. Invece negli ultimi anni, e parliamo già dal 2006, ma in modo più intenso dal 2010 e oggi con questo accordo, siamo arrivati proprio a un discorso di tagli veri e propri di quelle che sono le zone di recapito, che sono anche le attività all'interno dei centri di meccanizzazione. Questo progetto è un progetto che vuole portare Poste Italiane a diventare praticamente tutt'altro rispetto a quello che è adesso. Sostanzialmente è un progetto che porterà alla scomparsa dell'azienda. È un progetto che prevede, e di questo se ne è già parlato anche a livello politico, ma è stato solo accennato e purtroppo i media non gli hanno dato la rilevanza necessaria, un progetto che prevede praticamente lo spacchettamento dell'azienda. In poche parole, si vuole trasformare il Banco Posta in una banca e questo avrà delle ricadute, sicuramente sull'occupazione molto pesanti perché voi immaginate una banca, che come Poste Italiane ha attualmente 14.000 sportelli, non può esistere, nessun sistema bancario potrebbe accettare un concorrente del genere, quindi voi immaginate il ridimensionamento fortissimo che ci sarà nel Banco Posta in termini di appunto tenuta occupazionale di personale. E per quello che riguarda il recapito, cancellarlo completamente, il recapito inteso come appunto quel servizio che garantisce il servizio postale universale, cioè la corrispondenza consegnata a tutti i cittadini su tutto il territorio nazionale alle stesse condizioni di prezzo e di qualità. Vogliono trasformare il recapito in una miriade di piccole aziende private, già ce ne sono iscritte all'albo che hanno l'autorizzazione a svolgere questo servizio, circa 3.000, quindi voi immaginate che frammentazione, ecco, assegnare il recapito a queste piccole aziende. Chiaramente anche qui il danno sarà enorme per i lavoratori che avranno delle condizioni di lavoro sicuramente insostenibili, perché queste aziende non saranno tenute a rispettare il contratto nazionale di Poste Italiane che, benché sia pessimo, comunque un minimo di garanzie le offre, ma potranno avvalersi, come già fanno dei concorrenti di Poste, di partite IVA o di lavoro nero. Non ci sarà il controllo assolutamente su quelle che saranno le condizioni di lavoro. Questo per i lavoratori. Per quello che riguarda gli utenti, che noi invitiamo comunque sempre in ogni nostra iniziativa ad unirsi a noi nella nostra lotta, per quello che riguarda gli utenti ci sarà uno scadimento del servizio, se non addirittura una scomparsa, perché nel momento in cui l'azienda privata, la piccola società privata si imbarca in un'impresa come quella della gestione del recapito in una piccola zona che può essere una circoscrizione, un piccolo comune, no? Chiaramente avrà come fine, come unico obiettivo quello di fare il profitto maggiore e questo profitto maggiore chiaramente può essere raggiunto in modi che noi già sappiamo, ossia sfruttando i lavoratori in modo indecente e scegliendo di agire solo nelle zone dove è più agevole consegnare la corrispondenza. Immaginiamo si debba scegliere tra un centro urbano, quale può anche essere Ariccio, Albano o una città come Roma, e scegliere di portare la corrispondenza in una zona rurale dove c'è un'abitazione ogni 100 metri. Chiaramente la scelta sappiamo benissimo dove andrà a finire. Quindi questo è il contesto all'interno del quale si inserisce questo nuovo accordo. Per quello che riguarda Vallericcia in particolare, noi abbiamo subito 6 tagli nel 2000, quindi 6 zone sono scomparse, e ne subiamo 6 anche adesso. Quindi è una cosa veramente molto pesante, considerando che oltretutto in tutti gli accordi che sono stati firmati, la parte che è stata attuata è stata soltanto quella che era a favore dell'azienda. Nel senso che i portalettere titolari di zona comunque sono rimasti, ma delle figure che sono necessarie allo svolgimento corretto del lavoro nei centri di distribuzione, che sono le scorte, sono i portalettere di scorta, non sono mai state adeguate alle esigenze del centro. Sostanzialmente le scorte esistono, ma vengono utilizzate per motivi in modo improprio, non per quello che sarebbe previsto dall'accordo, ossia sulle assenze improvvise dei portalettere, perché magari c'è la malattia, perché magari c'è il giorno di ferie, perché magari appunto ci sta un qualche motivo, una legge 104, una maternità. No, le scorte vengono utilizzate anche su zone di portalettere che sono andati in pensione, quindi l'azienda non assume, utilizza le scorte. Questo si ripercuote in modo negativo sul servizio che viene offerto, perché nel momento in cui un portalettere manca, succede che non c'è nessuno che possa sostituirlo, e quindi ci sono giacenze enormi di posta che si accumulano nell'ufficio e che vengono spesso anche nascoste agli utenti che vengono a reclamare, e ci sono dei pellegrinaggi, veramente delle file incredibili di gente che viene presso il centro di distribuzione a reclamare la propria corrispondenza, e spesso viene nascosta l'esistenza di questa giacenza o vengono dette cose non veritiere agli utenti, gli si dice che la zona è coperta, gli si dice il portalettere è uscito, quando non addirittura guarda è colpa del tuo portalettere se non ti porta la corrispondenza, senza dire tutto quello che c'è dietro, che il portalettere magari sta sì lavorando ma che ha una quantità enorme di giacenze e quindi non potrà accontentare tutti subito, o addirittura appunto che la sua zona, la zona di questo utente, è scoperta. Quindi quello che... Allora, per tornare sul discorso appunto del contesto generale nel quale si inserisce tutto questo processo di riorganizzazione, tra virgolette, delle poste, dobbiamo pensare semplicemente a quello che è la situazione a livello nazionale per quello che riguarda tutti i servizi, perché quando parliamo di poste parliamo di un servizio pubblico, anzi noi siamo inseriti tra i servizi pubblici essenziali, quindi siamo riconosciuti anche come un servizio importante, centrale per la cittadinanza. Bene, rispetto a questa situazione dei servizi, cioè dei beni comuni, no, che i cittadini, dei quali i cittadini dovrebbero poter fruire, noi abbiamo tantissimi esempi di privatizzazioni, parliamo del trasporto pubblico, parliamo della sanità, parliamo di tantissime situazioni nelle quali appunto lo Stato si scarica delle proprie responsabilità e privatizza i servizi, sempre fraintendendo il discorso e la differenza tra privatizzazione e liberalizzazione, contro la quale potremmo anche, rispetto alla quale la liberalizzazione potremmo anche discutere, no? Cioè se viene garantito comunque un servizio pubblico, poi i privati possono avere facoltà di fare, diciamo, la loro attività tranquillamente. Rispetto a quello che riguarda le poste siamo in questa stessa condizione, il servizio pubblico viene dismesso, viene abbandonato dallo Stato che non se ne cura più. Ricordiamo una cosa, Poste Italiane è vero che dal 98 è una SPA, ma è vero anche che Poste Italiane è una società che ha una intera azionariato del Ministero del Tesoro, al 100% è del Ministero del Tesoro. Quindi voi capite che il discorso di cancellare questa azienda dal panorama delle aziende che svolgono servizi è veramente una responsabilità molto grande e qualche cosa che viene fatto a dispetto di quelli invece dovrebbero essere i principi che regolano la gestione di certe aziende. C'è un altro discorso da far notare, noi siamo in un periodo nel quale tutti ci dicono che c'è una crisi pesantissima, una crisi secondo la quale, a causa della quale tutti quanti noi dobbiamo fare la nostra parte, tutti quanti noi dobbiamo fare le nostre rinunce, perché la crisi è una crisi fortissima, morde tutti i giorni e quindi mancano i soldi e tutto quanto. Ora quello che è da dire rispetto a Poste, ma anche a livello generale, Poste Italiane non è affatto un'azienda in crisi, Poste Italiane dal 2002 ha bilanci in attivo e in crescita, dai 50 milioni circa di euro nel 2002, sempre crescendo siamo arrivati ai 1.082 milioni di euro nel 2012, quindi voi capite che questa azienda è un'azienda che è ben florida, chiaramente quindi non ci sono motivazioni, giustificazioni a... per i tagli che vengono proposti, e non sono giustificazioni per l'azienda e tantomeno giustificazioni per il potere politico che sta lì a guardare e non interviene assolutamente. E lo stesso discorso si può fare per tanti altri servizi che sono stati privatizzati e abbandonati dallo Stato, no? Dalle amministrazioni locali. Il discorso che i soldi non ci sono, qui vorrei fare una parentesi che è un discorso che è parallelo e molto legato però al discorso del mantenimento di Poste Italiane, e vorrei parlare della Cassa Depositi e Prestiti. Cassa Depositi e Prestiti è un soggetto che è stato fino al 2003 un soggetto completamente pubblico e che dal 2003 ha visto al suo interno l'ingresso delle fondazioni bancarie che ora hanno, con delle situazioni di grande privilegio, il 30% delle azioni. Bene. Allora, la Cassa Depositi e Prestiti è un soggetto pubblico che ha sempre, fino al 2003 almeno, ha sempre gestito tutti quelli che sono i soldi che entrano in Poste Italiane attraverso i libretti e i buoni postali. Quindi, in poche parole, Cassa Depositi e Prestiti emette libretti e buoni postali, Poste Italiane, azienda comunque ancora a vocazione pubblica, li colloca sul mercato, noi tutti, 12 milioni di italiani circa, insomma, quindi immaginate, no, di famiglie, quindi molti italiani, mettiamo i nostri piccoli risparmi in Poste Italiane con i libretti e buoni postali. La Cassa Depositi e Prestiti fino al 2003 prendeva questi soldi e li usava per concedere ai comuni dei prestiti a tassi molto molto agevolati, che permettevano appunto alle amministrazioni comunali di fare interventi per il bene collettivo, e quindi parliamo, non so, dalla ristrutturazione della scuola che c'ha il tetto cadente o entra l'acqua eccetera, al trasporto pubblico locale e tutto quello che ci vogliamo mettere che è di competenza delle amministrazioni locali. Bene, ora con l'ingresso delle fondazioni bancarie all'interno di Cassa Depositi e Prestiti tutto questo non avviene più. La Cassa Depositi e Prestiti si comporta come una vera banca e i tassi di interesse che propone ai comuni sono quelli bancari. Fondamentalmente succede che i comuni non possono più avere accesso a questi prestiti e si ferma quella che è l'attività, al di là del patto di stabilità e tutto il resto ovviamente, si ferma quella che è l'attività che i comuni potrebbero fare. Le ricadute sono pesantissime, appunto, anche la Cassa Depositi e Prestiti la possiamo considerare come un bene comune perché nasce e si sostiene con i soldi pubblici di tutti quanti. Le ricadute sono pesantissime perché in questo modo i comuni sono costretti a rinunciare anche a creare dei posti di lavoro che possono essere dei posti di lavoro reali e veri, non posti di lavoro fittizi. E quindi voi capite che il problema di scomparsa di Poste Italiane non è soltanto un problema di un servizio pubblico che viene cancellato, non è soltanto un problema di tenuta occupazionale e di condizioni di lavoro, non è soltanto un problema di Posta che non arriva con tutti i disagi che vengono, ma è anche un problema molto più ampio che riguarda tutti gli aspetti della nostra vita. Pensiamo, uno per tutti, l'acqua. Il referendum c'è stato, ebbene è stato sancito che l'acqua deve essere pubblica, ma ora il paravento dietro il quale si nascondono molte amministrazioni è che i soldi non ci sono. Bene, invece non è vero, perché con una Cassa Depositi e Prestiti che ricominciasse a svolgere le sue funzioni originarie, i soldi per la gestione e il mantenimento degli acquedotti ci sarebbero, e quindi voi capite che il problema è molto più ampio di quello che sembra a prima vista. Allora, quindi come vogliamo chiudere questa prima giornata di sciopero? Dando sicuramente appuntamento a tutti i cittadini, a tutti quelli che questo problema lo vivono e del quale devono farsi carico, alle prossime iniziative. Quali potranno essere? Al momento noi vediamo come possibili iniziative che già abbiamo provato a praticare in tempi passati, quello di una raccolta di firme, nella quale i cittadini chiedono il ripristino di tutte le funzioni di Poste Italiane, a cominciare dal recapito e quindi adeguamento dei portalettere, adeguamento delle strutture e delle dotazioni dei portalettere, adeguamento del personale degli uffici postali per evitare le chilometriche file che purtroppo tutti quanti sono costretti a fare quando vanno a fare operazioni all'ufficio postale. E quindi una petizione che noi vorremmo fosse presa anche in carico dall'amministrazione comunale. Noi vorremmo che, come per altre iniziative democratiche, no, in questo paese, ci fosse la possibilità per i cittadini di andare a firmare la nostra petizione anche nell'ufficio comunale, nella casa comunale, perché è lì che si deve capire quanto gli amministratori locali sono interessati a difendere poi oltretutto i diritti dei cittadini. L'altra cosa che possiamo pensare, e dovremmo anche valutare, la possibilità di un'azione collettiva legale, perché chiaramente ci sono dei danni proprio materiali oggettivi ai cittadini. Chi non riceve la bolletta, non per cattiveria, non la paga e si trova poi costretto a pagare delle more che possono essere anche di una certa consistenza. Quindi la negazione di un diritto e di un servizio può anche portare, insomma, ecco, ad adire un'azione legale. Quindi per il momento sono queste le cose che pensiamo di fare. Contiamo di informare la cittadinanza con volantinaggi nei posti, appunto, no, dove possiamo incontrare più cittadini possibili, con dei manifesti che eventualmente faremo uscire e appunto con iniziative altre che vorremmo proporre, sempre pubbliche, che potranno essere assemblee di approfondimento e di informazione su quella che è l'evoluzione di questa situazione.